Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Alle Azzorre con Romana Petri. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sto per farmi portare nel bel mezzo dell'Atlantico da Romana Petri. Come sempre ci andremo accompagnate dai suoi racconti e dalle emozioni che le sue parole mi riveleranno. Quelle stesse parole ed emozioni che lei anni fa ha affidato ad un libro. Sono curiosa perché quella di oggi è una meta decisamente affascinante e per certi versi insolita, anche se, come dice Romana all'inizio della nostra conversazione, la banalità o meno di una meta dipende molto dalla soggettività del viaggiatore. Le mete potrebbero essere tutte banali e tutte insolite in realtà, perché ogni viaggio può essere un viaggio di quelli non quasi inimmaginabile, oppure uno e magari facendolo uno trova qualcosa di estremamente banalizzante, così come magari uno va a Parigi per la prima volta in vita sua e scopre chissà che cosa di incredibile che scopre solamente lui. Le Azzorre, io sono sempre stata molto appassionata di tutto ciò che è lusitano. E quindi, siccome i miei paesi, quelli che ho amato di più da viaggiatrice, sono stati prima il Portogallo, poi le Azzorre e poi il Brasile. Questi sono i miei tre luoghi fondamentali. Nome: Isole Azzorre, arcipelago di origine vulcanica situato nell'Oceano Atlantico. L'arcipelago è formato da 9 isole principali: São Miguel e Santa Maria, il gruppo est; Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, il gruppo centrale; Flores e Corvo, il gruppo occidentale. São Miguel è l'isola principale, è la più grande, poco meno di 750 km quadrati, e la più popolata, 130.000 abitanti. Abitanti totali 234.500. Clima marittimo temperato. Forma di governo regione autonoma del Portogallo. Lingua ufficiale portoghese, seguita da diversi dialetti di origine africana e fiamminga. Fuso orario meno un'ora rispetto al meridiano di Greenwich, meno 2 ore rispetto all'Italia. Documenti: carta d'identità, moneta euro, religione cattolica. Le chiedo per cominciare come le è venuta voglia di Azzorre, pur avendomi già svelato di essere appassionata di tutto ciò che è lusitano. Stavo a Lisbona e avevo un bel po' di vacanze di fronte e mi sono detta: no, adesso vado in un'agenzia, mi compro un biglietto e voglio vedere queste Azzorre. Prima di tutto perché all'epoca era il 1990 e le Azzorre erano veramente andare fuori nel mondo. Oggi non è più così. Non c'è la stessa sensazione arrivando in questo momento. Nel 90 era proprio andare, a parte il fatto che stanno così proprio, è un giardino in mezzo all'oceano, quasi a metà strada tra Lisbona e New York, leggermente più vicino a Lisbona, quindi c'è un giardino meraviglioso dentro solo mare. Siamo in un luogo che ha una forte vocazione al mare, vocazione che si può estendere a tutto ciò che è portoghese, visto anche il richiamo nella storia che gli abitanti hanno avuto nei confronti di quella distesa d'acqua, spingendoli a partire alla conquista di terre nuove. E l'Atlantico, da queste parti, sembra davvero essere la vera e spesso unica attrazione. Io sono stata la prima volta lì e sono arrivata nell'isola di São Miguel, che, devo dire, pur essendo meravigliosa, è sicuramente, insieme a Terceira, l'isola che mi è meno congeniale, perché già allora, pur essendo nel 1990, era comunque luogo di partenze, di arrivi, un po' di turismo c'era, e c'era un po' di, diciamo così, tra virgolette, di confusione, cosa che certamente non cerco. Per esempio Madeira, mi piace molto l'isola di Madeira, però è un'isola estremamente civilizzata, con grandi alberghi, ci andava Churchill, insomma c'è tutta un'altra dimensione. Quello che mi piace delle Azzorre è quello che generalmente nessuno cerca, cioè lì veramente non c'è niente da fare tranne che guardare il mare, ascoltare i gabbiani, passeggiare, insomma non è che uno dice vado in discoteca. Certamente non sono le isole da scegliere se si vuole fare vita notturna. La sera sembra che tutti siano, dopo le 8 di sera, sembra che tutti siano stati sedati, insomma, poi gli azzorreani sono un popolo che praticamente sono i portoghesi estremizzati, cioè sono praticamente muti, ecco, gente che parla pochissimo, che sembra anche poco ospitale, in realtà è una grossa chiusura proprio da isolani. Avevo anche letto tantissimi anni fa un bellissimo libro che si chiamava Gente felice con lacrime, di uno scrittore portoghese che si chiama João de Mello, e l'avevo letto in portoghese. Di nuovo i libri e gli scrittori a fare da guide, veri e propri tour operator della parola. E a proposito di parole, sembra che il silenzio sia il vero suono dei portoghesi e degli azzorreani. Quando però è l'azzorreano che scrive delle Azzorre, ne scrive in un certo modo. Lo straniero che va lì, come sono stata io, scrive invece delle Azzorre visioni fantastiche, allucinazioni, vede solamente il lirico, il poetico, poi magari riesce anche, voglio dire, insomma, in tanti racconti che io scherzo, racconti, è un romanzo dove ogni capitolo è un personaggio. Ho anche messo delle cose abbastanza truculente, come per esempio la povera signora che va a fare i suoi bisogni nella casettina che sta un po' lontano dalla casa sua, e questo senso di solitudine, di dolore. Però non c'è dubbio che il romanzo scritto dalla persona del luogo è un pochino, cioè sono due cose completamente diverse, ma è un po' meno sognante di quello che può scrivere, non so, romanzo su di Roma scritto da me, che ci sono nata. Non credo che venga fuori quella Roma misteriosa, quella Roma fascinosa che potrebbe capitare in un romanzo scritto da uno straniero, perché è ovvio che chi vive in un luogo lo vive, e forse la cosa che riesce a fare meglio magari sono delle critiche, mentre invece per chi va e si emoziona e si innamora di un luogo, ecco che allora diventa tutto è poetico, tutto è meraviglioso. Non so, ecco, per esempio Roma, chi l'ha descritta meglio di Pasolini, che non era romano? Dos roxos nós nos beirais, dos vestidos cor de rosa, dos pregões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa em voz saudosa na guitarra soluçar. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Alle Azzorre con Romana Petri. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo alle Azzorre con Romana Petri. Casa sua a Roma si è trasformata nell'arcipelago circondato dall'Atlantico, a metà strada tra Lisbona e New York. Il libro nel quale la mia accompagnatrice ha riunito tutte le sue emozioni legate a questo luogo si intitola La donna delle Azzorre, dove le isole si trasformano in una terra piena di magia, dove la realtà è sempre pronta a nascondere qualcosa di inaspettato. Dunque, io sono sia come scrittrice sia come individuo sono molto attirata dall'idea che i vivi e i morti coabitano insieme, e devo dire che questo è il luogo che mi ha dato proprio questa sensazione più brutale, più forte. È come se quel confine, quell'intercapedine tra la vita e la morte venisse capovolto, oppure venisse semplicemente estratto come se fosse una diga, no? Improvvisamente la diga si apre, per cui vivi e morti si mescolano tutti insieme, e questa è la sensazione che uno ha. campagne scheletriche e amene nello stesso tempo, luoghi di fioritura quasi tropicale e poi luoghi che sembrano la terra del fuoco bruciati dalla lava, le rocce battute da un mare violentissimo, perché siamo in mezzo all'oceano, con un mare molto inquietante, anche un po' pericoloso, per cui queste rocce hanno assunto delle forme, cioè, passeggiando lungo la falesia si ha l'impressione di vedere delle persone pietrificate che chiedono pietà alle onde con le mani quasi che si allungano verso l'orizzonte, come per dire basta, no? Di tutto questo furore. Quindi di notte o al tramonto vedere queste immagini, uno ha, se uno ha un po' l'aria visionaria come ho io, non fa molta difficoltà a vedere delle forme che si possono anche muovere, eccetera. Un posto dove il mare la fa da padrone, dove il cielo cambia in continuazione, dove la geografia è così prepotente che la storia dei suoi abitanti non può opporsi. Mi ricordo che una volta a Flores andai a prendere un caffè nel bar di Santa Cruz, proprio la paesetto principale, e mi dissero: mi spiace, oggi il caffè non glielo possiamo fare, la macchina si è rotta, dobbiamo aspettare il pezzo che arriva dalla nave. A quell'epoca c'erano le giornate della carne, per esempio. Oggi la carne si trova tutti i giorni nelle Azzorre, ma quando sono andata io la carne si vendeva per esempio il martedì e il giovedì, quindi uno aveva già dei suoi percorsi, no? non era così tutto facile come altrove. Appunto, si rompe una macchina del caffè e il bar non fa più il caffè a nessuno. Os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Direi che sicuramente questa atmosfera, adesso non vorrei essere fraintesa, ma profondamente mistico-religiosa che c'è. Ma che uno non si deve lasciar coinvolgere da questa parola, cioè stupisce anche un ateo, non c'è bisogno di credere o non credere. Questa immagine di questa fusione dell'ultraterreno col terreno è qualcosa di estremamente evidente. Per esempio, in questa isola ci sono degli uccelli che si chiamano cagarros, vengono chiamati gli uccelli neonati. Non c'è una traduzione di questo nome in italiano, quindi non saprei come definirlo. Comunque sono simili ai gabbiani, più brutti, grigi, quasi ciechi, e di notte fanno un verso infantile, come di bambino, come di neonato che piange disperatamente. E quindi nella notte buia, col mare, le tempeste, le luci fioche, questa falesia sempre tonante e questi uccelli che fanno questo verso lamentoso, sicuramente questa atmosfera non può non far pensare anche a un'apparizione. Tant'è che io nel romanzo che ho scritto anche di persone che mi appaiono, che penso che siano vive, che poi scopro che sono morte, cosa che in un luogo così non stupirebbe affatto. Il canto dei cagarros è decisamente surreale. Capisco come si possano avere delle visioni ai confini con la realtà. Ma la realtà di queste isole è anche quella del clima, un clima che si può addirittura rincorrere. E poi c'è, per esempio, non so, questa cosa straordinaria che uno sta a prendere il sole, però siccome la costa, per esempio, di Pico è abbastanza lunga, io vedo, magari sono, che ne so, a Cachorro, però mi accorgo che a Praigna piove. Quindi c'è questo mutare del tempo che è quasi... chi si può andare dietro con la macchina? Ecco, no, guarda, qui oggi c'è brutto, andiamo a 6 chilometri perché lì si vede che è tutto sereno. Poter inseguire il sole. Qui è possibile anche questo, così come è possibile mangiare il pesce più buono che il mare possa regalare. Io dico sempre perché l'Italia è un paese con una cucina splendida e siamo una penisola circondata dal mare. Eppure io dico sempre: andate in Portogallo perché mangiate il pesce per la prima volta in vita vostra, nonostante la nostra... perché cuciniamo benissimo, però il pesce buono da noi secondo me non c'è, o comunque avendo scoperto quello il nostro sembra veramente pesce congelato e scongelato, anche se è fresco, insomma. Poi, insomma, l'Atlantico è talmente grande, è più pulito, il pesce è più sano, e nelle Azzorre c'è questa cosa meravigliosa che se uno ama pescare, insomma, non è come straziante come da noi, dove non c'è più un pesce che non si sa più dove andarlo a prendere. Uno si mette su uno scoglio verso il tramonto e prende dei saraghi cicciotti bellissimi che si fa poi sulla griglia, e sono veramente squisiti. Chi non pesca invece va in pescheria e trova delle delizie a 3 euro al chilo, che insomma il pesce a 3 euro al chilo credo che non esista più da nessuna parte del mondo. Nós já vivemos 100 mil anos, encosta-te a mim. Talvez eu esteja exagerado, encosta-te a mim. Dá cabo dos teus desenganos, não queres ver quem eu não sou. Deixa-me chegar, chegar da guerra. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Alle Azzorre con Romana Petri. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Arcipelago delle Azzorre nel bel mezzo dell'Atlantico. Ci sono arrivata sospinta dalle parole di Romana Petri. Mi ha già fatto amare la magia della realtà che si respira sulle isole, realtà che cambia in continuazione, come i suoi cieli carichi di nuvole che in un attimo possono diventare di un blu accecante. Qui il mare è una necessità, eppure andando all'interno si possono trovare le montagne. Per esempio, prendendo una macchina e andando, perché sono quasi sempre all'interno di queste isole, ci sono sempre delle montagne anche. Beh, Pico c'è una montagna altissima, e quindi proprio una vera e propria montagna. Andare lassù in cima ci si può trovare anche la neve d'inverno. Ma tutte le isole hanno questa... sono vulcaniche, quindi c'è il punto dove c'è stato il vulcano, è sempre una grande altitudine. Allora, per esempio, giù c'è il mare, c'è questo tempo variabile che quando c'è il sole è un sole bruciante, sembra veramente un sole tropicale, quando non c'è il sole fa subito freddo, c'è subito un po' d'umidità, eccetera. Gli occhi non si annoiano mai alle Azzorre. Ci sono certi fiori poi che alla vista aggiungono l'olfatto tra i sensi da stupire. Quindi insomma devo dire che c'ha una variazio anche a livello proprio della vista, perché c'è questa cosa bellissima che sono molto umide, per cui nascono cose pazzesche, fiori. C'è un fiore che non ha un nome in italiano perché non esiste in Italia, è, immaginatevi, un grappolo d'uva dritto in piedi con un gambo e un grappolo tutto in su, con dei fiori molto grandi gialli. Ecco, voi ne cogliete uno di questi, lo mettete in casa e dovete tenere le finestre aperte per il profumo meraviglioso che promana. Ecco, non se ne può tenere un mazzo dentro casa perché altrimenti si sviene. Però facendo questi giri interni delle isole ce ne sono talmente tanti sui bordi delle strade che uno con i finestrini aperti a volte resta come un po' intontito da questo odore dolce, profumato, una cosa veramente meravigliosa. E poi è bellissimo vedere questi appezzamenti di terra, queste colline lievemente umbre toscane come tipo di forma, con questi appezzamenti di terra divisi soltanto da siepi di enormi, meravigliose ortensie, che è veramente uno spettacolo inenarrabile. Nel cavallo grande tutti questi fiori chissà di che colori vestono le isole? Beh, blu, l'azzurro dell'ortensia, il violaceo, bianco, lilla, viola e azzurro. Tant'è che l'isola di Faial la chiamano l'isola blu, proprio per questa quantità enorme di queste ortensie gigantesche che vengono... Cioè, io quante volte ho provato, io le amo molto le ortensie, a comprarne una, mi muoiono sempre, perché o c'è freddo o il sole le distrugge. Lì c'è un sole che spacca le pietre, però c'è continuamente questa, quasi, sai, quella pioggia leggera leggera che neanche la senti, non ti bagna, però rende quell'umido intorno. Questi fiori sono enormi, non è che sono ortensie normali, ogni fiore è una cosa egiziaca, proprio ciclopica, e c'è questa pioggerellina costante, soprattutto verso le montagne, che regala a questi fiori questo turgore bellissimo. E lì nascono le banane, lì nascono le ananas, lì c'è tanto tabacco, il famoso tabacco azzorreano, fanno delle ottime, chiama fumare, insomma, sono delle buonissime sigarette, sicuramente molto meno elaborate di quelle che fumiamo noi, insomma, non che faccia bene, però insomma sicuramente meglio di tante altre cose. Colori a non finire, con colori svariati, un tripudio proprio di colori, dal gioioso al lugubre, e questo miscuglio è molto emotivo, molto emozionante. La descrizione dei colori violenti delle azzorre nel racconto di Romana Petri mi fa sorridere, quasi li potessi vedere anch'io in quella casa piena di libri. Mi viene in mente una frase del suo libro, La donna delle azzorre: colori che rendono l'anima molto euforica per chissà quale futuro sconosciuto e insieme piena di rimpianto per i molti atti mancati della nostra vita e che nemmeno ricordiamo. Non sono solo colori questi, sono sollecitazioni per lo spirito. La domanda successiva che mi viene da rivolgere a Romana è quindi sulla spiritualità. Beh, durante ci sono molte feste religiose, e quindi chiaramente in queste feste religiose ci sono dei canti popolari e canti religiosi ai quali loro sono molto legati, perché anche se un'isola c'ha, diciamo, quella che potrebbe essere definito il capoluogo, che viene sempre un po' da ridere perché comunque sono cittadine piccole, a parte Ponta Delgada in São Miguel e Angra do Heroísmo in Terceira, che sono città piuttosto grandi, però poi dopo sono cosparse di quelle che loro chiamano aldeias, e che sono proprio a volte anche, insomma, frazioncine, ecco. Però ognuna ha la sua processione, c'ha il suo santo, che poi sono queste processioni tra il sacro e il profano, perché la statua del santo o della Madonna, che poi sono diversissime dalle nostre, perché hanno le parrucche, sono vestiti veramente, anche in chiesa i santi non sono statue, sono proprio dei veri e propri, a dirlo così può sembrare un po' quasi come se io volessi irridere tutto questo, sembrano dei veri e propri manichini, no? Però molto sentimentali, alla fine molto struggenti, perché gli fanno questi vestiti a mano con le decorazioni, gli mettono queste parrucche, hanno tutta questa ovatta ai piedi come se fossero nelle nuvole, le ortensie e tutto quanto. E ogni piccola frazione ha questo suo santo che viene portato in processione, ognuno ha la sua banda, per esempio, ogni piccola frazioncina ha la sua banda che suona. E poi questo santo, quasi sempre con una mano allargata, allungata, porta appeso tantissimi soldi, perché ognuno mette dei soldi come una coroncina. E quello che fa molta impressione è vedere che ci sono tantissimi dollari, perché gli azzorreani sono quasi tutti emigrati, principalmente in California, che è proprio la loro seconda patria, tant'è che in queste casette che l'estate vengono riaperte proprio dagli emigranti ci sono la bandiera del Portogallo e la bandiera degli Stati Uniti d'America sempre messe insieme. Ma Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Alle Azzorre con Romana Petri. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo alle Azzorre, isole strepitose dove il blu dell'oceano si confonde con l'azzurro dei cieli e delle ortensie, dove il silenzio dei suoi abitanti si mescola al canto straziante dei cagarros e alla furia delle onde che si infrangono sulle coste, dove vecchio significa rotto e l'antico invece coinvolge gli affetti, come Romana Petri ha scritto nel suo libro La donna delle Azzorre e come ci tiene a ribadire anche di persona. Le cose diventano antiche presto. E già per esempio il fatto che una cosa sia appartenuta a tuo padre già diventa antica. E questo perché hanno anche quella purezza di non avere la vera antichità alle spalle che abbiamo noi. Cioè, per esempio poi per uno che viene da Roma, che è circondato dall'antichità, sentir dire questa è una cosa antica e ti porta magari una ciotola, un piatto sbeccato dove è stato sicuramente comprato magari, che ne so, in un supermercato americano 60 anni fa e poi portato lì, sentirlo nominare, chiamare antico, a noi può far sorridere, però invece in realtà è loro la santificano gli oggetti, hanno questo senso della conservazione, del rimettere a posto, non di buttare per rifare nuovo, ma magari di aggiustare quello che c'è, perché quello che c'è è già antico, dopo 30 anni è una cosa antica. Loro non usano per loro la parola vecchio, e devono dire che un oggetto è vecchio significa che non serve più, che si è rotto, e allora vecchio può essere anche comprato 5 giorni fa, ma si è rotto ed è una cosa vecchia. Antico invece c'è il senso dell'affetto, c'è proprio l'aver riversato lì dentro una quantità di affetti e di sentimenti, che quindi una tazza. Anche gli oggetti hanno una storia, e in quella storia c'è tutta la magia della vita che non si arresta, che spinge per rimanere sempre il presente di qualcuno, pur appartenendo al passato di altri. E io questo l'ho molto capito, perché una volta mi sono imbattuta in un casolare abbandonato. E chissà, forse i proprietari si erano trasferiti in America, però l'avevano lasciato incustodito, non c'era finestre, non c'era niente, era tutto andato in malora, tutto rotto, tutto sbeccato, però lì ho trovato una tazza che è diventata la mia tazza. Me la sono portata via, la sono lavata, pulita, e quella è diventata la mia tazza antica. Lì ci sento veramente, nonostante io sia di Roma, potrei avere una casa magari di fronte al Colosseo e bermi il caffè in quella tazza, mi sentirei pienamente antica. Cioè ci sarebbe lì in quel momento l'antichità vera, storica, ma un'antichità anche fatta semplicemente di tante emozioni che poi vengono trasportate attraverso gli oggetti. Un oggetto può trasportare molto. Uma noite em que o céu tinha brilho mais forte e em que o sono parecia disposto a não vir, fui estender-me na praia sozinho ao lento e ali longe do tempo acabei por dormir. Acordei com o toque suave de beijo e uma cara sardenta encheu-me o olhar. Ainda meio a sonhar, perguntei-lhe quem era. I ricordi sulle Azzorre sono vivissimi per Romana. Ci sono storielle che ancora la fanno emozionare, come quella a Pico, la sua isola preferita tra le 9 che formano l'arcipelago. E un ricordo bellissimo che ho, molto malinconico, in una frazioncina che si chiama Cabritus, in Pico, c'era una piazzetta, Arcus, dove si svolge proprio il romanzo. In questa piazzetta c'era un pozzo di acqua dolce e poi intorno alla piazza di cemento avevano fatto per star seduti. E questi che emigranti anziani, che erano emigrati tanti anni fa e che non tutte le estati tornano perché il biglietto costa, però insomma ogni tanto, ogni 2 o 3 anni riaprono queste casette, la sera si riunivano, si mettevano tutti seduti in tondo, ognuno portando qualcosa da mangiare, chi aveva fatto della carne, chi aveva fatto una minestra, mangiavano tutti insieme seduti, silenziosissimi, perché sono un popolo veramente che quando parla ad alta voce, non lo so, forse hanno bevuto, perché altrimenti ci sono delle feste in piazza che cominciano nel silenzio più totale e che poi alla fine, dopo tante birre, si comincia a sentire qualcosa. Ma questa serata fu una serata speciale, perché io non stavo, vedevo dal mio terrazzino questa cosa, hanno mangiato tutti quanti, poi hanno tirato fuori un mangiadischi, hanno messo dentro delle musichine loro che si chiamano le Shamarites, e con una compostezza, con un rigore, con uno struggimento per me, hanno cominciato tutti a ballare, ogni vecchietto con la sua vecchietta, questi antichi balli di quando avevano, non so, 15-20 anni e se ne sono andati. Mi racconta che quella era l'epoca in cui scappavano. Era l'epoca in cui, in Portogallo, c'era una dittatura tremenda, la dittatura di Salazar. E nelle isole si stava malissimo. C'era la fame nera e quindi la gente emigrava, fuggiva. Ma non è possibile fuggire da quei posti senza portarseli dietro. Beh, insomma, non c'è dubbio che chi è nato lì, in questo ambiente così devastante, perché con le Azzorre forse l'aggettivo più adatto sono proprio dei luoghi devastanti, ti possono fare molto del bene e molto del male, puoi sentire un senso della morte così profondo da non averne più paura, puoi sentire un senso della vita così intenso da capire che quel dolciastro della vita si confonde meravigliosamente con l'agrodolce della morte, insomma, che non c'è tutta questa differenza, insomma. Poi magari un'altra persona ci va e dice: non mi piace per niente, non ci sento niente di tutto questo, io tutto questo lo sento, che ne so, in un altro posto dove sono stata, perché è chiaro che i luoghi non promanano da loro stessi le stesse cose per tutti quanti. Ci sono luoghi che sono i nostri luoghi e ci sono i luoghi che ci respingono. È in questi luoghi che nasce la saudade, quella che io sento un po' prendermi la gola. E voi? Questi luoghi dove la terra si confonde col mare, lasciando alla magia della realtà uno spazio immenso. Non stupisce che proprio uno scrittore portoghese come Pessoa abbia scritto una frase nella quale forse da queste parti ci si riconosce più che altrove. Viaggiare? Per viaggiare basta esistere. Ora Romana Petri è in libreria con Tutta la vita, edito da Longanesi. Devastando minha aldeia e o conselho da povoação. Devastando minha aldeia e o conselho da povoação.